Friuli nel mondo, 72esima trasmissione dedicata agli emigrati. Villotte popolari viste da 5 giovani. L'antica villotta Ious Doi la Buinestere, arrangiata a tempo di Mambo Lento, è la sigla musicale del complesso Tonin e il suo quartetto. Sono 5 giovani veramente in gamba, ai quali l'amore alla tradizione e al folklore friulano, accompagnato dalla passione per il ritmo moderno, ha suggerito di interpretare i vecchi ma pur sempre melodici canti popolari della nostra terra secondo gli schemi tradizionali della musica leggera d'oggi. Questo complesso bene affiatato, composto da Antonio Kuberli, fisarmonicista, da Bruno Rossi, violinista, chitarrista e cantante solista, da Nadalini Renato, batterista, da Rodolfo Grinzato, pianista, e da Archileo Gori, violinista e contrabbassista, esegue ora la villotta dal titolo Ursule Parusule. È una suonata a tempo di shuffle. L'originalità della composizione consiste nell'aver, senza modificare la linea melodica originale, adattato il pezzo musicale alle esigenze delle attuali interpretazioni. Ursule, parusule, fatto soggiami, comandi, panni, cocule, sospetti, mio marito le latte in Francia, compra un epelance, far pesagno, fradico, cagia tavoli. Giante, giante, un signor, la fui biele, non mi ur, la fui brute, non mi blas, e a che altre, i goten nas. Ursule, parusule, se fatto so che vi, o mangi panni, coccoli, sospetti, mio marito è latte in Francia, compra un epilanze, far pesagno, fradi, crotti, cacciantaveli e gnot. Fatto so che vi, o mangi panni, coccoli, sospetti, mio marito è latte in Francia, compra un epelance, far pesagno, frati, crotti, cagliatale di egno. Giante, giante, oh signor, la pugliele, non mi ur, la pui glute, non mi plas, e a che altre, i gotenna, ursule, parusule, se fatto so che vi, o mangi panni, coccoli, sospetti, mio marito è la più grande, compra un'entrelanza, far pesagno, fra di crocca, cantare di. rigo del nas. La bella e nostalgica villotta Ti prei ben mio è stata dal quintetto orchestrata e interpretata a slow rock, e cioè a tempo di slow e di rock and roll moderato, stile Platters. In esso le maggiori difficoltà sono dovute ai trasporti di tempo. Ti prego ben mio, no, sta mai, ma andi. Io devi partire.